La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta qui in diretta a 16.35, primi 30 secondi dagli studi Radio 24 di Milano. Andiamo subito al punto della trasmissione di oggi. Vi invito a chiamare 800 24 00 24 per dirci la vostra, da qualunque parte ci ascoltiate in Italia, anche se il tema della trasmissione è il sud, il mezzogiorno. E la domanda che vi faccio è, rispetto a intanto ne parleremo, che il mezzogiorno perde in più rispetto al paese in questi anni di crisi, al fatto che si è riaperta il gap tra nord e sud, e si è riaperto su tutti gli indicatori, il reddito pro capite, il PIL pro capite, gli investimenti, la produzione industriale, cioè in ogni dolorosa voce della crisi italiana, che è un bilancio di un periodo, un conflitto di media intensità perduto dal 2007 a oggi, il sud perde molto di più. La domanda che vi faccio è: di chi è la colpa prevalente se poi alla fine non si è visto un differenziale per affrontare questo gap? Della classe dirigente nazionale, della politica in quanto tale, il sud ha le sue colpe, paghiamo un tributo al nord che per 20 anni ha detto che doveva riequilibrare l'Italia pensando a se stesso innanzitutto, e poi non ha pensato né a se stesso né tantomeno a recuperare il gap del sud. Ricordo solo a tutti che la Germania in 20 anni dall'unificazione ha fatto per diminuire il gap quanto in 152 anni di storia italiana l'Italia non è assolutamente riuscita a fare. Quindi si può fare, il problema è che non ci si riesce. E diteci quindi la vostra chiamando all'800 24 00 24. Noi ne parliamo per due dati che sono usciti ieri e oggi, che ci hanno fatto fare l'ennesimo salto sulla sedia. Ieri era la fotografia dell'economia della Campania, con tutte le arretratezze rispetto alle medie nazionali conseguite purtroppo in questi anni di crisi. Oggi un'altra notizia di quelle che fanno riflettere sono i sette anni per sbloccare le zone franche fiscali e contributive previste per il sud. 7 anni, la decisione era stata del 2006. Ecco, e di fronte a queste notizie abbiamo deciso di fare questa trasmissione invitando con noi a parlarne il presidente della Svimez. La Svimez è l'associazione per lo sviluppo industriale del mezzogiorno, diciamo il faro del pensiero meridionalista dello sviluppo nel nostro paese da molti decenni, ed è con noi il presidente dello Svimez, Adriano Giannola, che è anche professore di economia bancaria all'Università Federico II di Napoli. Grazie di essere con noi, Giannola. Grazie a voi dell'ospitalità. Senta, posso chiedere all'inizio anche a lei, voi avete girato tutto l'anno scorso l'Italia insieme a un'altra ventina di associazioni che si occupano di tentare di attrarre l'attenzione sullo sviluppo del sud, dicendo: guardate, le cose vanno di male in peggio, bisogna fare questo, questo e questo. Si è visto poco o niente. Qual è la risposta alla domanda che voi date su: ma le responsabilità in capo a chi sono? Sono molto diffuse, però insomma alla fine non è che se sono molto diffuse vuol dire che veramente nessuno è colpevole. Qual è il problema secondo lei? Ma diciamo c'è un problema a nostro avviso di fondo, che quindi più che una responsabilità è una incapacità di analizzare le cose per come stanno, le cose non del mezzogiorno ma dell'Italia. E quindi la grande illusione che in qualche modo ha anestetizzato, diciamo, rispetto alle cose che erano evidenti ben prima del 2007, a nostro avviso, è che l'Italia fosse un paese felice con un nord che faccia andare la locomotiva e un sud che aveva dei problemi, come viene citato anche nella lettera all'Europa che noi facciamo, sì, con grande sicumera. Il nord è tra le aree più forti non solo d'Europa, del mondo. Sì, sì. E il sud ha un problema di responsabilità, di classe dirigente e così via, però i fondi strutturali e il federalismo fiscale faranno, se usati in modo efficiente e disciplinato, recupereranno un po' di gap. Esatto. Ora, questa è una grandissima illusione che tuttora, ho visto una recente intervista di un grande filosofo sindaco di una città del nord, ex sindaco, esatto, che dice cose terribili dal punto di vista di una analisi corretta della realtà italiana. Ancora si illude di un nord locomotiva, che i vagoni non possono trascinare la locomotiva verso il baratro, eccetera, eccetera, e che il sud è diciamo, un grande evasore, anche perché è sostanzialmente preda dell'economia criminale. È chiaro che con analisi di questo genere non si va da nessuna parte, e a nostro avviso un altro elemento drammaticamente negativo per il Sud è stato l'uso dei fondi strutturali. La sola invenzione dei fondi strutturali è un modo di ghettizzare il problema, che non è un problema regionale ma è un problema nazionale, che investe direttamente il Nord, il rapporto tra Nord e Sud, che va completamente rivisto e reinterpretato. E la Svimez da anni sta dicendo che il Sud è la grande opportunità per recuperare un ruolo all'Italia nel mondo globale, e che chiaramente tutto ciò impone chiarezza di analisi, analisi dei dati fatti in modo serio e molta capacità di intervento e ovviamente di responsabilità e disciplina delle, chiamiamole, classi dirigenti del Nord e del Sud. Se guardiamo un secondo alcuni dati di come anche al Sud si è interpretato ciò che c'era in termini di risorse, una delle grandi polemiche di questi anni è, in quadro molto restrittivo di finanza pubblica, ovviamente le risorse sono quelle che sono. Però ieri appunto c'era l'aggiornamento della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Europa con i diversi fondi di coesione strutturale europei. Per esempio in Campania praticamente a pochi mesi dalla fine del sessennio europeo, per chi ci ascolta, nell'Unione Europea c'è una programmazione di 6 anni in 6 anni per questo tipo di fondi, siamo alla fine del sessennio e appena stata chiusa la trattativa europea per l'attribuzione delle risorse per i 6 anni fino al 2021 di fronte a noi, però la regione Campania era ferma al 25%. Quando ci sono dati come questi, molto diffusi in tutte le regioni del Sud, il problema è incapacità tecnica degli uffici tecnici delle regioni, è un problema di ordine generale. Secondo voi, perché avvengono queste cose se il problema è risorse scarse? Ma quei dati fanno riferimento, credo, a spese certificate. Sì, esattamente. In realtà spese, come dire, fondi impegnati sono ben di più, quindi in qualche modo non è quello il livello che a bocce ferme sarà poi il risultato del quel periodo di programmazione. Certamente i rischi sono molto alti di perdere ingentissime risorse, quindi non è voler negare un problema. La nostra impressione è che, impressione ormai credo consolidata, che le regioni del Sud in particolare, ma non solo le regioni del Sud, non siano enti né programmatori né esecutori eccellenti o ideali, e anche perché, diciamo, quella loro incapacità è anche legata a una altrettanto grossa incapacità del centro di dirigere, diciamo, il traffico, perché il centro, lo Stato, diciamo che il centro col titolo quinto se ne è abbondantemente lavato le mani. Esatto, se posso. E questo ha determinato conflitti di competenze, disgregazione proprio strategica, incapacità di individuare obiettivi rilevanti per tutte le regioni, non ognuna per fatti suoi, i piccoli obiettivi che poteva in qualche misura inseguire. E questo è un momento della verità. Noi se dovessimo programmare altri 6 anni ci dovrebbe essere una ben diversa attitudine, soprattutto a considerare il problema dello sviluppo, e ripeto, non del Mezzogiorno. Oggi il problema è l'Italia, e in questo il Mezzogiorno deve essere calato e quei fondi devono essere indirizzati. Visto in una prospettiva nazionale. Iniziamo a sentire con i nostri ascoltatori, c'è Gianluca che chiama da Siena. Prego Gianluca. Sì, salve. Salve. Io volevo dire che il punto fondamentale, a mio avviso, è che l'eccessivo assistenzialismo dei governanti di turno, che pensano in tal modo di comprarsi i voti al Sud, frena ogni potenziale iniziativa individuale. Cioè, al Meridione si preferisce la elemosina dello Stato piuttosto che rischiare, piuttosto che buttarsi, confrontarsi col mercato. Gianluca, dall'aspirazione che sento, sbaglio se dico che lei non è di Siena ma di origine calabrese? Ah, infatti, no. Quindi lei parla, per così dire, senza che ci sia un pregiudizio, per così dire, perché è la sua provenienza. Ecco. Ok, grazie Gianluca di questa opinione secca. Gianni da Verona, prego Gianni. Ciao Oscar, guarda, io nel 58 sono andato al cinema, un bel cinema, e mi ricordo che ho pagato, c'era un sovrapprezzo, era non so, 10 lire o 20 lire, ma però per me erano tante. Dice, è per la cassa del mezzogiorno. Sai, sono passati 50 anni. Non ci sono più giustificazioni. Beh, il regime della cassa, il regime straordinario, è finito da anni. Il problema è che poi anche gli interventi successivi. Siamo intervenuti, ecco, più volte. Ma quel problema, dai, è che, anzi, abbiamo dato decine di punti di PIL. Il problema è che l'effetto, esatto, è che non abbiamo. Ma allora, il popolo del sud, guarda che io non sono leghista, sì, però il popolo del sud deve scoglionarsi. Scusa la parola. Tu dici c'è una questione culturale che va affrontata e risolta, certo, giù. Ma non è mica possibile avere un'assistenza. Senti, abbiamo sempre giù le pensioni che sono l'80% in più, abbiamo come si chiamano, le assistenze, in poche parole, ha troppo assistito. No, Gianni, nel reddito disponibile del sud la quota dovuta ai trasferimenti è molto più elevata. Attenzione, se andiamo a vedere i dati 2012, quindi dichiarazione dei redditi 2011, noi abbiamo un livello di reddito disponibile pro capite però che nella regione del sud varia tra il 40 e il 30% inferiore rispetto a quello della Lombardia. Qui è ovvio che i trasferimenti pubblici a quel punto siano più elevati, come è ovvio, lo sappiamo, ce ne siamo occupati tante volte, che c'è una più alta concentrazione, per esempio, dell'invalidità utilizzata negli anni come una specie di ammortizzatore sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che dalle prime due telefonate la questione, lo dico al presidente dello Svimez, questo non è un sondaggio, però come vede nel nord è molto diffusa questa opinione ancora oggi. Adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, poi torniamo col presidente dello Svimez, Adriano Giannola. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:47 e 45 secondi. Stiamo parlando del sud, siamo partiti da alcuni dati, foto devastante del cumulo di aggravi rispetto a produzione industriale, PIL pro capite, reddito pro capite. Sette anni, lo sottolineo, per sbloccare le zone franche previste nel 2006 per tentare di attenuare la presa fiscale contributiva in diverse regioni, tra cui Campania e Calabria del sud. 7 anni, questo è il tempo medio in cui purtroppo noi riusciamo ad attivare la leva fiscale, e di fronte a questo la reazione dei nostri ascoltatori, che dice sì, ma però ci vuole più autocritica nelle classi dirigenti del sud. Lei che dice, Adriano Giannola? Ma l'autocritica è sempre benvenuta, io però ritengo che le osservazioni sono molto importanti, quelle fatte, perché in qualche modo vanno contestualizzate con un invito molto pacato, molto laico, a guardarsi i numeri e a guardarsi la logica che sta dietro questi numeri. Dico molto semplicemente, sui trasferimenti ci si riempie la bocca di questa valanga di trasferimenti che arriverebbe al sud, io non sono meridionale fra l'altro, ogni anno. Beh, basta guardare i numeri. Dal 92 ad oggi i trasferimenti sono nettamente diminuiti, ma molto diminuiti. Un altro numero è che se prendiamo per quintili di reddito, cioè redditi più bassi e redditi più alti, al mezzogiorno il 38% dei redditi sta nel quintile più basso, cioè più povero, e l'8,5% in quello più alto. Al centro-nord l'11% sta nel quintile più basso e il 26% in quello più alto. La Campania c'ha il 41%, che è la regione più grossa, la seconda regione d'Italia, e solo il 7% nel più ricco. Quindi i trasferimenti non sono né un regalo, ma la semplice applicazione di un diritto di cittadinanza, che se io vado a scuola ha una stratigrafia di redditi che è molto più è ovvio che quindi la tassazione c'è un coefficiente di Gini più elevato in base ai servizi da offrire. Questo non ha nulla di assistenziale. Poi c'è tutto l'assistenzialismo, i forestali, quelli sono i modi con cui si cerca di fronteggiare in modo errato dopo la fine della cassa per il mezzogiorno, che ripeto, nel periodo in cui operò ridusse il divario nord-sud di oltre 20 punti percentuali, di questo ci dimentichiamo, e finì nel 76, ragazzi, del mezzogiorno. Quindi un po' di storia farebbe molto bene a tutti e ancor più bene farebbe un'analisi corretta dei dati, a partire dal filosofo Cacciari all'ultimo degli ascoltatori. Ma noi siamo qua per questo, infatti ho chiamato lei. È meritorio questo. Perché le posso garantire che naturalmente a molti del nostro pubblico si dice: ma come stai chiamando uno di loro? Io poi sono contrario a queste visioni antropologiche. Se c'è una cosa che il meridionalismo può rivendicare è proprio non essere pro mezzogiorno o pro assistenza. No, a me colpisce, per esempio, io l'ho scritto pochi giorni fa, un paese che in questi anni ha perseguito, per esempio, la via dell'aumento delle accise, l'aumento delle imposte patrimoniali e così via, come ovvio, anche questo non se ne parla quasi mai, ma dove c'è un reddito disponibile molto più basso e distribuito, come ha appena detto il professor Giannola, guardate che l'effetto regressivo è molto più pesante lì che nel resto del paese. Nessuno questo si è occupato di dirlo dei governi, però ogni volta che scatta un'accisa, un prelievo patrimoniale, non solo sulla casa, pensate al bollo fisso sul conto titoli, sul risparmio del mezzogiorno, ripeto che ha un ammontare medio molto più basso di quello del resto del paese, li stiamo picchiando di più. Poi io lo dico perché a casa, siccome anch'io sono un nordista che voglio più sviluppo, non è che non mi posso preoccupare se nel sud il valore aggiunto della manifattura è sceso molto sotto il 10%, quando noi dobbiamo tornare a un 20 e più per cento rispetto al totale nazionale, perché questo vuol dire che non andiamo da nessuna parte, cari amici in ascolto. A proposito della manifattura, lì la responsabilità delle imprese, secondo lei, parlo a livello nazionale, senza distinguere le locali che sono alle prese con difficoltà terribili rispetto a quelle nazionali anche del nord, come hanno risposto le classi imprenditoriali industriali nella crisi, secondo lei, Giannola? Ma le classi imprenditoriali oggi rivendicano la politica industriale che fino a 7 anni fa era demonizzata e veniva, quindi ripeto in generale, quindi non entro nel merito incentivi al sud, al nord e così via, si sono svegliate tardi da un'illusione che fatte alcune regole, fatta la cornice, il quadro poi si sarebbe formato da solo e invece no. Anche perché così non ha fatto la Germania, così non ha fatto la Francia, solo noi abbiamo fatto questa veramente folle illusione di non avere una politica industriale, anzi di dire che assolutamente... Però il problema è che noi avevamo come politica industriale fatto nei primi decenni dell'intervento straordinario, no, ma alla fine erano diventate anche le cattedrali del deserto a fine di consensi però. Questo sì, ma io direi dopo il 74 tutto questo si determina perché cambia il modello. Quindi lei dice: noi non abbiamo fatto una riflessione sulla degenerazione dell'intervento industriale e abbiamo in questo liquidato il tutto, compreso il buono che per decenni effettivamente aveva colmato un bel po' del divario. Che aveva colmato un bel po', che aveva anche previsto che il rischio era l'assistenzialismo se non si faceva una corretta politica. E quindi adesso ci becchiamo l'assistenzialismo e forestali senza lo sviluppo industriale. Assolutamente. Questa per sintesi di chi è a casa. Sentiamo ancora Emanuele da Milano, prego. Emanuele. Sì, buonasera. Sì. Senta, forse mi ripeto, già uno ascoltatore ha parlato di assistenzialismo. Io volevo magari allargare la questione dell'assistenzialismo in tutte le sue forme, non solo a quelli che sono stati i trasferimenti che gli sono dovuti al... E per esempio ancora a che cosa? Ma a tutto, alle forme di sussidio, alle disoccupazioni date a larga scala quando sono... Emanuele, se andiamo a vedere quella in deroga delle regioni, guarda che quella in deroga delle regioni è un problema nazionale, non è del sud, la cassa in deroga che è quella data con criteri discrezionali, quindi anche lì io sono per distinguere le responsabilità, però se guardo i dati c'è poco da fare. I dati diranno una cosa, però se uno ci va al sud e ci vado per lavoro, si vede che... per 6-7 mesi all'anno c'è gente che lavora e prende sussidi di disoccupazione, aziende fasulle, fantomatiche che prendono la cassa integrazione. Questo ne abbiamo parlato tante volte. Questo dei sussidi, prendi i soldi e scappa, è stato un altro problema effettivo dopo la fine della cassa straordinaria e purtroppo per anni abbiamo visto senza intervenire nel nostro paese. Hai perfettamente ragione, Emanuele. Sentiamo ancora Pasquale da Novara. Prego, Pasquale. Sì, buonasera, signor Oscar. Sì. Guardi, dalla dizione si capisce che non sono del nord, ma sono un campano che da quasi 30 anni lavora al nord. Sì. La mia esperienza è quello che vedo, senza fare dati statistici o altro, perché non ho competenza, non ho... E quello che vede dice? È questo, che praticamente dal dopoguerra ad oggi Il sud Italia ha avuto tutti i vantaggi che noi sappiamo, come Cassa del Mezzogiorno, dal punto di vista anche fiscale per le assunzioni, e quindi... nonostante ciò si sono visti i risultati. Mentre il nord, vediamo l'Emilia Romagna, non essendo conosciuta per il mare, per la spiaggia, viva di zona. No, lei dice insomma i livelli di sviluppo corrispondono a diverse capacità, si è sprecato molto. Professor Giannola, io le darò un altro appuntamento, perché come vede questo è un grande tema nazionale, non lo devo dire io a lei, perché lei lo insegna a me e a noi, però dobbiamo continuare a parlarne, perché la gente così la pensa. Arrivederci, continuate a sentire Radio 24.